della banca fino al 31/12/2017. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi e note legali nelle concessionarie Land Rover. Hashtag Autotrasporti. Buongiorno, buongiorno da Andrea Ferro e bentrovati all'appuntamento del lunedì per parlare di trasporti e logistica. In apertura oggi torniamo ad occuparci di salute e sicurezza stradale. L'insonnia, a volte associata a disturbi del sonno come la sindrome delle apnee notturne, può moltiplicare fino a 3 volte il rischio di incidenti, un rischio al quale inevitabilmente sono più esposti i guidatori professionali. Chi riposa male è soggetto a malattie cardiovascolari, diabete, depressione e disturbi respiratori. A rivelarlo è uno studio del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Genova, condotto in collaborazione con il Dipartimento di Scienza della Salute dello stesso Ateneo e del docente di Medicina del Lavoro Nicola Magnavita dell'Istituto di Salute Pubblica dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma. Il sondaggio ha riguardato 949 autotrasportatori. È risultato che il 27,5%, praticamente 1 su 4, soffre di insonnia e quindi, come dicevamo, ha più probabilità di provocare un incidente o esserne coinvolto. Ma ascoltiamo il professor Nicola Magnavita. Diciamo che noi operavamo in una condizione molto favorevole perché non eravamo i medici competenti delle aziende da cui queste persone dipendono, quindi non potevamo emettere nessun provvedimento restrittivo sulla loro guida. La partecipazione era assolutamente libera e anonima e veniva offerto sostanzialmente, anche per allettare gli autisti, un check-up della vettura oltre a quello della persona, e quindi diciamo che circa 1500 persone si sono rivolte a noi per avere un controllo del veicolo, e 1 migliaio hanno aderito anche alla visita medica, che però veniva prestata in una struttura di estrema efficienza da specialisti, quindi garantiva sia la qualità della indagine sanitaria sia l'assoluta irrilevanza ai fini della propria carriera. A questo punto le persone erano sincere, quindi ci dicevano sinceramente come stavano. E noi abbiamo messo in relazione poi tutti questi fenomeni patologici con la frequenza degli incidenti stradali negli ultimi 3 anni. È un dato che si raccoglie abbastanza bene, la persona ricorda se ha fatto un incidente, anche perché poi il sinistro c'è delle conseguenze importanti, ed anche i quasi incidenti, cioè le occasioni in cui uno era riuscito a sfuggire a un incidente stradale, ma questo negli ultimi 6 mesi, perché è un evento molto spiacevole ma che poi per fortuna si dimentica. Ecco, c'era un aumento molto significativo di rischio per chi ha dei problemi del sonno. Al Ministero dei Trasporti dopodomani sono convocati i rappresentanti di UNATRAS, l'Unione delle Associazioni dell'Autotrasporto. L'incontro era stato sollecitato per affrontare una serie di questioni rimaste sul tappeto da tempo. Pensiamo per esempio alle misure per porre un argine alle distorsioni sul mercato indotte dalla concorrenza sleale praticata dai vettori dell'Est Europa, ma anche questioni che si sono materializzate in queste ultime settimane. Il riferimento è all'emendamento alla legge di bilancio che ha dirottato fondi per 150 milioni di euro in 3 anni dall'autotrasporto al trasporto marittimo. Alla vigilia dell'incontro le rivendicazioni dell'autotrasporto, dalla voce di Pasquale Russo, segretario di UNATRAS. Innanzitutto chiederemo al Ministero di rispettare gli impegni che sono stati assunti con le imprese di autotrasporto. In primis la revoca immediata dell'emendamento che ha spostato 50 milioni di risorse dal capitolo dell'autotrasporto su altri capitoli, quindi è fondamentale il ripristino immediato delle risorse che sono state stanziate a favore dell'autotrasporto. Chiederemo di intervenire immediatamente sulla questione dei trasporti eccezionali, che ancora non hanno trovato una soluzione definitiva, e quindi i danni che si stanno producendo al sistema dell'autotrasporto, ma anche al sistema della produzione per effetto delle norme sui trasporti eccezionali, non sono più, diciamo, sostenibili. E chiederemo inoltre che si avvii anche per l'anno 2018 un serrato calendario di incontri per affrontare la vitale questione per le imprese di trasporto italiano del road package, cioè del pacchetto autostradale, che si sta discutendo in questi mesi a livello comunitario e che riguarda molto da vicino l'autotrasporto, soprattutto per quanto riguarda le norme del dumping sociale, e chiederemo che su questo il governo italiano faccia quello che stanno facendo i governi francesi, il governo tedesco, il governo belga, cioè chiedere con forza che si eliminino tutte le distorsioni sulla concorrenza legate ai costi del lavoro. E a proposito di contrasto al dumping sociale, nei giorni scorsi nel porto di Zeebrugge la polizia belga ha posto sotto sequestro 112 mezzi pesanti di proprietà di un'impresa con sede in Slovacchia, per conto della quale lavoravano autisti romeni. La ditta avrebbe operato come subvettore per conto di un'azienda belga. L'intervento della polizia, riferiscono i giornali locali, sarebbe scattato dopo la denuncia presentata da alcuni autisti. Un'altra notizia arriva dalla Gran Bretagna. Secondo la Freight Transport Association, nei primi mesi del 2017 è praticamente raddoppiato il numero delle aziende di autotrasporto in fallimento. Sotto accusa il prezzo del carburante, che incide per un terzo sui costi di gestione di un mezzo pesante. Ora bisognerà vedere cosa succederà anche nell'autotrasporto britannico per effetto della Brexit. E rimaniamo all'estero, si contabilizzano anche in termini di denaro le conseguenze dell'interruzione di 50 giorni della linea ferroviaria lungo il corridoio Reno-Alpi, interruzione avvenuta il 12 agosto a Rastatt in territorio tedesco. Le ferrovie svizzere hanno fatto sapere di aver patito un danno in termini di mancato fatturato pari a 26,5 milioni di franchi, cioè poco meno di 23 milioni di euro. Due settimane fa la neve aveva offerto il primo assaggio stagionale. Al di là delle atmosfere suggestive della soddisfazione degli appassionati degli sport invernali, per chi viaggia la neve è fonte di disagi spesso anche molto pesanti. Già appunto due settimane fa erano state ore difficili sulla 1 con traffico pesante bloccato. Per affrontare preventivamente l'emergenza neve, ogni inverno scatta un piano ad hoc che prevede blocchi preventivi dei mezzi pesanti, un piano la cui applicazione spesso è stata fonte di polemiche. In sostanza è capitato che le misure scattassero senza che sussistessero condizioni realmente proibitive. Per l'autotrasporto un blocco prolungato significa ritardi nelle consegne e conseguenze economiche rilevanti. Nei giorni scorsi una delegazione delle associazioni dell'autotrasporto ha incontrato i rappresentanti della società Autostrade per formulare una serie di proposte. Era presente Alessandro Manzi di Assotir, che ci spiega cosa si sono detti. Va bene attuare una fase preventiva, diciamo, nel momento in cui il traffico, diciamo, stradale, insomma sulla rete autostradale, può così creare problemi nel momento in cui cade la neve, però è vero anche che uno dei problemi fondamentali dell'autotrasporto è la consegna della merce, e quindi se diciamo facciamo fermare i camion diciamo in una fase preventiva così troppo prolungata, questo per l'autotrasportatore chiaramente è un problema. Allora, quello che si è andato ad individuare come possibile soluzione a questa problematica è stato di dire: vabbè, proviamo a fare una fase sperimentale in cui vengono fatti dei controlli e chi, diciamo così, è totalmente in regola, quindi ha in dotazione dei pneumatici, diciamo così, invernali, appunto, di consentirgli di poter ridurre il tempo di attesa e quando vengono ripristinate le condizioni per poter viaggiare, diciamo, proseguire appunto nel percorso, nel viaggio che deve compiere. Perché poi l'autotrasportatore questo dice: io ho le catene a bordo, ho speso per i pneumatici dalla neve e comunque mi tenete bloccato, perché diciamo devo essere trattato come colui che di fatto non, tra virgolette, non rispetta le regole. A proposito di viabilità, al traforo del Gran San Bernardo la scorsa settimana hanno preso il via i lavori di ricostruzione della volta della galleria dopo il crollo di una soletta avvenuto il 21 settembre. Da allora il tunnel è chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Gli interventi dovrebbero concludersi tra Natale e Capodanno, quando la galleria potrebbe essere riaperta a senso unico alternato. Al momento tra Italia e Svizzera il traffico è deviato al traforo del Monte Bianco. Sempre in tema di traffico, aumenta quello dei tir sulla 4, la Torino-Trieste. Nel trimestre luglio-settembre, infatti, i chilometri percorsi dal traffico pesante hanno fatto registrare un incremento del 4,3%, mentre il traffico leggero ha subito un decremento dell'1,7%. La statistica non lo dice, non lo può dire, ma l'aumento del traffico pesante deriva essenzialmente dall'aumento del numero dei mezzi provenienti dall'est. Altri numeri in chiusura arrivano da Anfia. A ottobre sono stati rilasciati 1945 libretti di circolazione di nuovi autocarri, più 1,1% rispetto a 12 mesi prima, e 1411 libretti di circolazione di nuovi rimorchi e semirimorchi pesanti, che equivalgono ad un incremento che oscilla tra il 18,2% e il 39,4%. I dati aggiornati relativi ai primi 10 mesi del 2017 indicano un aumento delle immatricolazioni di autocarri del 10,7%, mentre per rimorchi e semirimorchi pesanti l'incremento si assesta a quota 16,2%. Con questi numeri mi fermo qui, grazie per averci seguito, vi ricordo che hashtag autotrasporti ritorna come sempre lunedì alle 13.45, ma nel frattempo c'è l'appuntamento del sabato con Container alle 13.15 con Massimo De Donato, un approfondimento su questi temi. Ancora grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.